Componimento 67° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Del Mar Tirreno, alla sinistra riva, dove rotte dal vento piangon l'onde, subito vidi quell'altera fronde di cui conven che n tante carte scriva. Amor che dentro a l'anima bolliva per rimembranza delle trecce bionde, mi spinse onde in un rio che l'erba asconde, caddi non già come persona viva. Solo vi era tra boschetti e colli, vergogna ebbi di me, al cor gentile basta ben tanto ed altro spron non volli. Piacemi almen d'aver cangiato stile dagli occhi a pie, se del lor esser molli gli altri asciugasse un più cortese aprile. Fine del componimento.